America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Donald Trump dunque ha deciso, gli Stati Uniti riconoscono Gerusalemme come capitale di Israele. La notizia in qualche modo era attesa, era stata anticipata già nei giorni scorsi e detto questo però chiaramente ha avuto le conseguenze che ha avuto, proteste un po' dappertutto, soprattutto nel mondo arabo, ma anche un discorso da parte di Donald Trump che cerca, come dire, di tenere aperte le possibilità per procedere lungo il processo di pace. Di questo ne parleremo in modo un po' più approfondito fra qualche minuto. Nel frattempo vorrei darvi così un quadro un po' di alcune notizie interessanti, curiose da tenere sotto controllo qui negli Stati Uniti. La prima riguarda ormai la celeberrima, famosa, attesissima elezione in Alabama, con il personaggio Roy Moore, l'ex giudice candidato per il Senato in sostituzione di Jeff Sessions, che come sapete è considerato un pedofilo perché aveva avuto delle relazioni improprie addirittura con una ragazza di 14 anni. Non si è ritirato, Donald Trump lo ha appoggiato, il Partito Repubblicano ha seguito Donald Trump. A quel punto è sceso in campo ieri Mitt Romney, l'ex candidato repubblicano, il quale ha detto: questo è uno scandalo, sarebbe una macchia nera per il nostro partito, guai ad andare avanti lungo questa strada. E chi gli ha messo il bastone fra le ruote? Steve Bannon, l'eterna anima nera dell'amministrazione Trump, come sapete è fuori, però rappresenta i valori, l'ispirazione per la base più, chiamiamola, retrograda che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca. Dunque una battaglia sempre più dura su questo fronte. Infine, Time Magazine. Dobbiamo mettere questa notizia nel contesto di quello che sta succedendo, gli scandali sessuali che riguardano grandi personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della politica. E cioè Time Magazine, copertina per persona dell'anno, l'ha dato a Me Too, questo movimento femminista, e ha messo in copertina 5 donne. Direi che è il simbolo, se vogliamo, della rivalsa delle donne. Insomma, riguarda questo grande fenomeno del nostro tempo, appunto, degli scandali sessuali. Ecco, vorrei tornare però adesso alla questione di Gerusalemme, perché è davvero un po' la notizia del giorno. Sentiamo di nuovo Trump. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. Ecco, avete sentito in questo passaggio il presidente che appunto dice: io spero che ci siano degli spazi per poter continuare nel dialogo per la pace. Io con me i microfoni di America 24, Federico Rampini, corrispondente di Repubblica degli Stati Uniti, vecchio amico, nonché ospite varie volte qui ad America 24. Buongiorno Federico. Buongiorno. Qual è la tua reazione davanti a questa notizia, un po' attesa, ma che ha avuto reazioni durissime in Turchia, nel mondo arabo, anche in Europa? È comunque una svolta storica, è uno strappo rispetto a 70 anni di diplomazia mondiale, ma anche americana, perché da 70 anni gli Stati Uniti mantenevano questa finzione. È proprio la finzione che Trump non accetta, cioè colpisce di lui una coerenza, è un antipolitico per eccellenza. Lui non ci sta all'ipocrisia di chi continua a incontrare a Gerusalemme i capi di governo israeliani e poi far fingere che la capitale sia Tel Aviv. Poi lui è uno che dice: io le cose che prometto in campagna elettorale le faccio. Altri presidenti prima di me avevano promesso questo gesto e poi hanno tradito le promesse. Io sono diverso. Altro elemento che fa parte della sua cultura antipolitica è: lui dice: non venitemi a dire che io faccio deragliare il processo di pace. Il processo di pace non esisteva. Cioè non difendete la vecchia politica estera visti gli esiti fallimentari. Di queste cose bisogna pur dargli atto. Fanno parte del personaggio. Ecco, c'è un prezzo da pagare per questo? C'è un disegno dietro questa cosa? Cioè ci sono altri elementi che tu intravedi come elementi positivi? Poi vedremo quelli negativi. Si può sperare che questo gesto così clamoroso, che ha suscitato tanto sdegno dalla comunità internazionale, sia parte di un gioco in cui, per esempio, Netanyahu incassato questo straordinario successo per il suo governo, faccia il prossimo passo con una grossa, sostanziale offerta ai palestinesi. In questo caso ci sarebbe una logica e potremmo dire che Trump aveva preparato con altri questa manovra. Ecco, perché infatti questa è una delle cose, devo dire, che più mi ha incuriosito, perché come qualcuno di voi ricorderà, insomma, nelle ultime settimane vi ho molto raccontato di quello che capitava sul fronte medio orientale. C'è stato un momento in cui alcune azioni parallele sono state portate in avanti, per cui quando il principe ereditario saudita ha arrestato i suoi cugini principi, quando c'è stato il processo di mediazione da parte dell'Egitto perché ci fosse un dialogo tra il PLO e Hamas, quando Hariri, primo ministro libanese, è arrivato a Riyadh, è stato prima arrestato e poi rilasciato, quando subito dopo il presidente americano ha annunciato che c'era un processo di pace in corso e c'erano poi contemporaneamente degli attacchi all'Iran, ecco, sembrava che tutto questo facesse parte di un unico disegno. E qui dobbiamo chiederci se c'è una dysfunctional attitude, no, da parte di questo presidente americano, che costruisce un piano, quello che sembrava un piano, e poi improvvisamente lo mina alla base. Ecco, tu vedi una contraddizione o un rischio che poi questo possa accadere? C'è il rischio che ci sia una contraddizione, può anche darsi che questa sia una presidenza caotica, che non sa procedere con una visione strategica, e può darsi allora, nell'interpretazione più negativa, che con l'annuncio su Gerusalemme Trump stia solo ripagando delle cambiali elettorali, stia ricompensando grandi finanziatori della comunità ebraica molto conservatori e molto ricchi che l'hanno appoggiato, come il magnate Adelson, stia ricompensando anche quella constituency fedelissima che sono gli evangelici, perché c'è un fondamentalismo protestante che vede in Israele un alleato di ferro che lo appoggia incondizionatamente. Sono tutti pezzi del mosaico che consentì a Trump di conquistare la Casa Bianca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me la fortuna di avere un grande esperto musicale, perché Federico Rampini, devo dire, è un grande conoscitore di musica. Federico, ci siamo divertiti anche nei viaggi presidenziali a parlare dei Beatles. E dunque, cosa scegli per canzone del giorno? Allora, questa volta una chicca non particolarmente conosciuta, ma è una delle prime canzoni di Simon & Garfunkel, si intitola You Can Tell the World, puoi dire al mondo, perché è una canzone biblica, come si addice a Gerusalemme. You Can Tell the World, Simon & Garfunkel, devo dire una scelta davvero esperto. Tell the world about this. You can tell the nation about that. Tell them what the master has done. Tell them what the gospel has come. Call out the victory's been won. He brought joy, joy, joy, joy, joy, joy into my heart. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.